Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È una nuova settimana di Eclettica, la numero 21, se non mi sto sbagliando. Nel caso comunque la playlist può fare sempre riferimento. Anzi, partiamo appunto con gli indirizzi che vi permettono o di andare a recuperare la playlist nel caso vogliate muovervi per i link su internet, myspace.com/eclettica, oppure riceverla direttamente nella vostra casella di posta, ma solo per quanto riguarda il futuro, quelle del passato ormai sarebbero andate perse. Giulio@radiorockfm.com, ecco, questo è l'indirizzo con cui iscriversi alla lista nera. Se iscrivete a questo indirizzo verrete automaticamente iscritti alla lista nera. Magari coglierò anche l'occasione per farvi qualche domanda, per capire di più di chi ascolta Eclettica, il suo profilo, da dove ascolta, da quanto ascolta, come ascolta, insomma tutte informazioni che poi mi permettono di riuscire a inquadrare bene come siete voi dall'altra parte degli apparecchi radiofonici, qualunque cosa voglia dire il termine apparecchio radiofonico. Giulio Caperdoni, che come al solito vi porta musica già ascoltata nelle scorse settimane o musica che ci ascolteremo da oggi nelle prossime, vi porta incipit letterari e vi porta spezzoni cinematografici. Il 25 settembre Mattia Scrone andò ad un concerto perché aveva letto sul giornale che la pianista teneva dei lupi nel giardino dietro casa. La foto che accompagnava l'articolo mostrava una donna non più giovane, con un volto bello ma impenetrabile. Non fissava l'obiettivo, il suo sguardo era rivolto all'interno. Si vedeva chiaramente che si era lasciata intervistare controvoglia. Nelle sue risposte ripeteva, come era inevitabile, quello che aveva già raccontato centinaia di volte sulla sua formazione, le sue tournée, le sue scelte di repertorio. Le domande sulla sua vita privata le eludeva. A proposito di una voce che l'intervistatore aveva raccolto da qualche parte, era venuta fuori d'un tratto la storia dei lupi. Questo era l'incipit di La pianista e i lupi di Hella Haase. Just Profumo di eclettica. Ben poco da dirvi sulla pillola di Eclettica. No, non era una pillola. Beh sì, era una pillola del passato di Eclettica, su questo profumo di Eclettica di quest'oggi, in quanto avevo già detto tutta la settimana scorsa. È l'eccezione che rappresenta la regola questa, ovvero sia due profumi di Eclettica dedicate non solo allo stesso gruppo, ma anche allo stesso disco. Le ragioni le ritrovate nelle trasmissioni in podcasting della scorsa settimana, o meglio nella trasmissione di cui poi in playlist recuperate il passaggio di Dust It, il brano che precedeva In Accept the Signal, l'album del 1999 per i Regular Fries, King Kong, che ci siamo ascoltati oggi. Quindi ho già speso parole, non vado a rispenderne delle altre. Vi lascio con l'intelligentissimo testo, a mio modesto parere, di Jonathan. Non c'è niente di giovane dentro una droga, proprio niente di giovane dentro una droga. Go.

Ci saranno biglietti in palio anche in questa settimana, dovrete rimanere sintonizzati, qualunque cosa questo termine voglia dire, per riuscire a vincere questi biglietti. Non li sto per annunciare ora, invece sto per annunciare il nuovo Lo Sguardo al Cielo, sia titolo dell'album che anche titolo del pezzo, degli Anonimo FTP. Thank you. des clochettes de manette. Il est posé dans des clochettes de manette. Tout m'a stené, après tout, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit. Parlato di biglietti, vero? Voi siete stati pazientemente in attesa di questo annuncio. È arrivato forse anche prima di quello che originariamente pensavo. I biglietti sono per concerti che si terranno il 23, il 24 e il 25 di marzo, quindi avete parecchio tempo perlomeno per pensarci e poi cercare di vincerli, perché se ci pensate troppo poi magari non ce ne sono più. Artisti che in queste settimane passano abbastanza spesso da queste parti, magari ripasseranno all'interno delle playlist di Eclettica anche nella settimana in corso. Sto parlando di Chris and Carlo, ovvero sia gli ex Walkabouts, che suoneranno il 23 di marzo al Naima Club di Forlì, il 24 alla Palma di Roma e il 25 in provincia di Como, a Grandate, al Freak Live Club. Tutto questo è possibile vincerlo scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Dopo esserci ascoltati la musica dei Tuareg, dei Tinari Wen, che escono per l'indipendente etichetta inglese con l'album A Man in Man, Water is Life, di solito ascoltati con Clara Shell, quest'oggi invece con Too Must, vediamo di recuperare il tempo che da parecchio stiamo cercando di recuperare con i Muzak, gruppo pugliese che mesi fa uscì con un album che passò inosservato ai miei occhi, In Case of Loss, Please Return To, e invece poi me ne sono accorto, ho avuto modo di ascoltarlo e da allora non lo mollo. Oxygen, Opiates and Other Pale Ideas. Thank you. eclettica. Fine della prima parte.